I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Inizia una settimana in cui ci sarà molta attenzione sul tema dell'evasione fiscale, anzi sul contrasto all'evasione fiscale. In primo luogo perché, come riferiamo oggi sul Sole 24 Ore, proprio dalla lotta all'evasione dell'IVA arriverà una parte consistente dei 3,2 miliardi di euro attesi già per quest'anno e che l'Europa ci chiede per la correzione dei conti pubblici. La lotta all'evasione quindi servirà per fare cassa. Solo poche settimane fa il presidente dell'Istat ha riferito in Parlamento che l'evasione fiscale nel nostro paese, riferita al 70% dei tributi e contributi, sfiora la cifra di 110 miliardi, il che porta la stima di imposte e tasse complessivamente evase a oltre 140 miliardi di euro all'anno, un'enormità insomma. Di evasione si parlerà poi anche giovedì prossimo e c'è da scommettere che non mancheranno le polemiche, perché il ministro Padoan e il direttore delle entrate Rossella Orlandi illustreranno il dettaglio dei risultati dell'attività di contrasto all'evasione nel 2016 dell'Agenzia delle Entrate, quindi spiegheranno da dove arrivano gli oltre 17 miliardi di euro effettivamente recuperati dall'agenzia stessa. Come si vede, l'evasione continua a essere un grosso problema. Tutti concordano sul fatto che il vero nodo sia l'evasione dell'IVA e non a caso, lo ripete spesso l'Agenzia delle Entrate, il livello di questa tipologia di evasione in Italia è quasi doppio rispetto alla media dei paesi europei. Da qui la scelta del governo di rendere ancora più incisivi gli strumenti che hanno la finalità di contrastare questi fenomeni di illegalità proprio sul versante dell'IVA. Vedremo con quali reali risultati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Lo spread che torna a correre fa paura, ricorda i momenti difficili del 2011, quando appunto l'Italia era sotto tiro della speculazione internazionale e i titoli di Stato avevano i rendimenti che volavano. Ma ci troviamo in una situazione analoga, è difficile dirlo, e soprattutto non ci sono più le stesse condizioni di allora. C'è in particolare Draghi che sta comprando i titoli di Stato, ma questo al mercato in questo momento non basta. C'è troppa incertezza internazionale, ci sono troppe nubi sull'euro e soprattutto sulle relazioni transatlantiche. Ma in particolare c'è un elemento che tiene un po' tutti con il fiato sospeso: l'Italia e i paesi più deboli dell'Eurozona. La Francia non lo è, però abbiamo visto il suo spread volare nuovamente su quello tedesco. Che cosa c'è che non va? C'è che l'euro, questo grande ombrello, riesce a proteggere le nazioni dalle tensioni interne, ed abbiamo visto quante ce ne sono state in Italia, ma non riesce a proteggere i paesi più deboli dalle tensioni internazionali. Quando c'è il vento che monta sull'economia, sul dollaro, sull'euro, sul debito, le parti più deboli dell'Europa sono quelle che si spezzano prima, e purtroppo in questo momento i segni di cedimento vengono proprio dai nostri titoli di Stato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.